vorrei portarti via di qua. E poi, chissà, donarti il mare, il cielo e la mia vita. Vorrei che noi fossimo un cuore solo che respira in due. Lo sai, si può cambiare il mondo in un sogno. E dammi la mano per cambiare e ricominciamo solamente noi. Vorrei, lo sai, vorrei volare in alto e darti gioia, energia, allegria, lottando contro il mondo per gridare via. Dammi la mano e adesso andiamo presto via. Dammi la mano e adesso un bacio, vita mia. Ci lascia scegliere di dire che non è possibile più sopravvivere in questo vivere. Io vorrei scrivere che nel silenzio non è possibile credere, correre, piangere, scegliere di non cambiare per sopravvivere, fare le cose per non resistere a questa voglia di essere liberi. Via, dammi la mano e adesso andiamo presto via. Dammi la mano e adesso un bacio, vita mia. Vorrei decidere, scegliere, dire che non è possibile più sopravvivere. Vorrei questo vivere, io scrivere che nel silenzio non è possibile. Vorrei correre, piangere, lo scegliere, sai, cambiare per sopravvivere, tutti andassero a fanculo tra noi.